pezzo di legname, all'improvviso il burattino si trasformò in un bimbo birichino. Era un bugiardo. Per magia fu trasformato da un pesce cane, fu divorato.